Incontri di Gianfranco Fabi. Con le note inconfondibili della primavera di Vivaldi iniziamo l'incontro di questa sera. Buonasera a quanti ci ascoltano e buonasera a Gianfranco Dioguardi. Buonasera. Gianfranco Dioguardi, presidente della Fondazione Dioguardi, una esperienza sul fronte della docenza, docente all'Università di Bari, imprenditore, costruttore, scrittore, grande amante di libri, ma di questo parleremo durante l'incontro. Ma innanzitutto gli chiediamo perché la primavera, certamente per augurare buona primavera a tutti, il clima è questo. Beh, per la verità viviamo un clima invernale, quindi l'auspicio primaverile mi pare che sia anche in termini sociali, economici, di ambiente, un buon auspicio. Ecco, un auspicio appunto, il clima sociale, politico, economico ha qualche segno di primavera, però un po' la ripresa si sembra che ci possa essere, un po' di politica un po' più stabile in questo periodo, qualche segnale, qualche fiore c'è sugli alberi italiani. È un fiore però che stenta a germogliare, insomma, si vede, si avverte qualche sintomo, ma speriamo che questi sintomi possano poi scoppiare in una vera e propria primavera vivaldiana. Allora, parliamo di lei, Gianfranco Dioguardi, abbiamo detto presidente della Fondazione Dioguardi, professore ordinario di economia e organizzazione aziendale al Politecnico di Bari, cavaliere del lavoro, imprenditore, tante cose ha fatto nella sua vita, tante cose ne farà ancora. A che cosa è più legato di queste attività? Ma io credo che il filone conduttore della mia vita sia stata proprio la cultura. Ho iniziato da giovanissimo frequentando una celebre e importante libreria barese, la Terza, che era all'epoca ancora invasa dall'atmosfera crociana, perché Benedetto Croce aveva in pratica vissuto in quegli ambienti. E quindi da quel momento sono stato attratto, affascinato dai libri e dalla cultura che i libri emanano, e ho cercato di perseguire questo fascino in tutta la mia vita anche attraverso questa posizione di amore verso la bibliofilia, che per la verità è subentrata un po' più tardi, perché questo amore per la bibliofilia si è verificato e sviluppato verso i 35-40 anni. Quasi per caso, racconta uno dei suoi libri. Sì, quasi per caso, ma anche per l'intervento di una mia diventata amica bibliofila, la signora Sicomb della libreria Rapaport di Roma, è stata lei che mi ha introdotto e poi mi ha insegnato ad amare il libro antico. La passione per i libri antichi che si è aggiunta alla passione per i libri moderni, per i libri di attualità, anche per scrivere libri. Lei ne ha scritti, possiamo dire, uno all'anno probabilmente. Ma io sì, devo dire, ho scritto molto, perché per mia abitudine antica ho sempre preso appunti per le mie attività, anche quelle imprenditoriali. E quindi poi gli appunti facilmente si sono evoluti in un testo scritto che poi è diventato libro. Ecco, quindi soprattutto nel campo però dell'impresa, avendo come un occhio quello di guardare alla società come qualcosa che si modifica, qualcosa in cui il cambiamento è un fattore essenziale e bisogna riuscire a cavalcare questo cambiamento. Ma devo dire, e lei ha centrato il problema, che il cambiamento è sempre stato uno dei miei orizzonti culturali da affrontare, da cercare di razionalizzare. Non a caso ho scritto anche il gioco del caso proprio come meccanismo per gestire il cambiamento. Ma devo dire anche che ho sempre operato su due piani che sono andati avanti in parallelo e congiuntamente. Da un punto di vista organizzativo e imprenditoriale ho sviluppato teorie che potessero così innovare i processi organizzativi in funzione del cambiamento, in funzione della flessibilità dell'impresa, e quindi sono venute fuori una serie di idee di cui la fondamentale è nata con un articolo in America che si intitolava Macro Fermo, cioè la macro impresa. E in parallelo poi ho invece sviluppato questa curiosità per i libri, curiosità bibliofila e culturale, e ho scritto vari libri, e qui sono stato incentivato a questa azione da Elvire Sallerio, che è stata una delle nostre grandi editrici, una delle nostre grandi interpreti della cultura, veramente indimenticabile. E quanti libri ha raccolto nella sua vita, acquistato, comprato? Ma io ho costruito una biblioteca che oggi conta circa 40.000 volumi. Che lei ha donato però al Politecnico di Bari. Non ho donato, ho donato alla Fondazione. E la Fondazione poi ha fatto un comodato gratuito con il Politecnico, e i libri sono stati sistemati nelle sale del Politecnico per poter essere a disposizione dei giovani, degli studenti, dei docenti e del pubblico in generale. Per un bibliofilo però è sempre un po' un rammarico dover lasciare i propri libri a qualcun altro. Ma guardi, è lo stesso senso che credo possa provare un padre nei confronti dei figli. Bisogna a un certo punto affidarli alla società. Inizialmente i figli sono quasi una proprietà privata, sì, del padre e della madre, e però poi sono destinati a diventare autonomi e quindi a trasferirsi sulla società. Ecco, lei è molto attento ai giovani, peraltro in uno dei suoi libri, Nuove Alleanze per il Terzo Millennio, magari ne parliamo nella seconda parte del nostro programma, dedica proprio ai giovani un capitolo, proprio frequentando anche l'università, vede i giovani come una grande speranza per il nostro paese. Ma io credo proprio che bisogna smettere di pensare ai giovani come problema e iniziare a considerarli una invece grande opportunità. Però, come tutte le opportunità, deve essere incentivata, deve essere organizzata. E io penso che anche i giovani non debbano essere lasciati soli nell'avventura della loro immaginazione, della loro creatività, ma debbano le loro idee essere poste costantemente al vaglio degli anziani, diversamente giovani, potremmo dire. Ma io credo che debba costruirsi un'alleanza stabile fra giovani e anziani, perché la creatività giovanile possa essere trasformata in azione imprenditoriale concreta. Ecco, il tema di alleanza è un tema che ricorre spesso nei suoi scritti, proprio uno degli ultimi libri, proprio Nuove Alleanze per il Terzo Millennio. Incontri. Ancora con le note della primavera di Vivaldi, riprendiamo il nostro incontro con Gianfranco Dioguardi, grazie che è rimasto con noi. Benvenuto a chi è arrivato adesso ad ascoltarci, Gianfranco Dioguardi, presidente della Fondazione Dioguardi, imprenditore, docente al Politecnico di Bari, e una lunga esperienza che è vissuta appunto, come abbiamo detto nella prima parte, con un filo conduttore, la passione per la cultura, la passione per le idee, la passione per i libri, una vastissima biblioteca che ha messo a disposizione della stessa fondazione, poi per rendere questa biblioteca 40.000 volumi, dicevamo, professor Dioguardi. Sì, con un fondo antico anche rilevante, insomma. Un fondo anche di libri antichi, tra l'altro uno dei libri, degli ultimi libri di Gianfranco Dioguardi, proprio per libri e per biblioteche, scritti di bibliografia, in cui fa una panoramica appunto delle sue avventure in questo mondo di libri. Ma abbiamo concluso la prima parte parlando di alleanze, anche perché un altro libro è Nuove Alleanze per il Terzo Millennio, edito da Franco Angeli, Città metropolitane e periferie recuperate, una presentazione di Gianfranco Giorello, in cui proprio Giorello ricorda di che alleanze si parla, una triplice alleanza, il rapporto tra natura e tecnologia, tra centro e periferia e tra vecchie e giovani generazioni. Questi sono i tre elementi che appunto in questo libro Gianfranco Lioguardi porta alla riflessione, tre elementi importanti. È una società attuale, una società un po' della dispersione, parlare di alleanze sembra un po' anacronistico, professor Lioguardi. Ma io credo che la società attuale sia caratterizzata da questo, da questa turbolenza determinata dal cambiamento, turbolenza che determina anche complessità. È una complessità difficile da gestire e io credo che per poterla affrontare e governare bisogna fare ricorso alle alleanze. Ecco, lei parla di rinascimento e illuminismo come due elementi di fondo che appartengono alla nostra storia, che vanno recuperati in una prospettiva proprio di crescita e di sviluppo anche a livello imprenditoriale. Lei è un po' critico verso gli imprenditori? Ma io credo che l'impresa abbia oggi più che nella sua storia un ruolo importantissimo da svolgere. È un ruolo che certamente la deve vedere impegnata prioritariamente sulla produzione anche di utili, ma non può prescindere da una sua presenza culturale, una presenza culturale che si deve accumulare all'interno dell'impresa, sui singoli partecipanti, sui singoli individui, sui singoli collaboratori, per costituire nell'impresa una nuova cultura che io definisco strategica, da trasferire poi sul territorio nella quale l'impresa vive, nella quale tutti i collaboratori vivono quotidianamente nel momento in cui lasciano i luoghi di lavoro. E quindi l'impresa, metaforicamente, la vedo trasformarsi in quella che io chiamo impresa enciclopedia, con riferimento alla grande impresa di Diderot e d'Alembert, l'enciclopedia, per poter diventare un'impresa sul territorio all'ascolto delle esigenze del territorio e al trasferimento sul territorio di una cultura capace di rivitalizzare la situazione ambientale, capace di vincere, se vuole, il degrado che oramai è tipico delle aree, in particolare periferiche della città. E questo vale proprio della sua esperienza di imprenditore edile. Lei ha un'impresa di costruzioni e nel libro dice che bisogna far sì che i cantieri non siano semplicemente dei luoghi dove si costruisce, ma siano degli eventi in cui si realizza un rapporto aperto e costruttivo con la città, in cui si fa partecipare in fondo la città alla propria crescita. Ma questo noi lo abbiamo iniziato come esperimento addirittura negli anni 78-80 del secolo scorso, con Renzo Piano a Otranto, per poi sempre più razionalizzarlo e svilupparlo fino a fare degli esperimenti ancora oggi vivissimi nel ricordo, in Francia, a Lione, dove costituimmo appunto cantieri, evento, avvenimento, capaci di comunicare sul territorio, capaci di rendere la ferita che si realizzava nella costruzione di una nuova fabbrica una occasione per dialogare e per, se vuole, informare e quindi educare gli abitanti interessati del territorio. Ecco, un territorio che è cresciuto molto spesso in maniera disordinata. Lei ha una grande attenzione verso le città e le periferie. Un'altra alleanza di cui parla è proprio tra le città, tra i centri e le periferie. Tra l'altro è un tema, quello delle periferie, che Papa Francesco ripete molto spesso come capacità appunto di ricondurre ad unità la società. È un'utopia o è una possibilità? Ma guardi, io mi rifaccio su questo argomento, che è per me oggi l'argomento fondamentale sul quale io sono interessato, mi rifaccio ai corsi e ricorsi di Giambattista Vico, e qui il riferimento alla mia iniziale cultura alla La Terza di Croce, e mi diventa maestra. Il corso storico sul quale io mi faccio riferimento è quello che ha avuto l'impresa produttiva, la quale, nata con Adam Smith nel Settecento come bottega artigiana, poi si è evoluta e cresciuta, si è ingigantita nell'Ottocento industrializzante e poi nel Novecento per diventare una grande impresa di difficile gestione. Ed ecco allora che sono nate le business school, le school of management, prima in America, Harvard, MIT, eccetera, ma poi anche in particolare in Italia, Milano, la SDA Bocconi e soprattutto il MIP del Politecnico, la School of Management del Politecnico. In termini completamente analoghi e simmetrici, la città, nata nella Medioevo come comune, poi diventata città rinascimentale nel suo momento di massimo splendore con le botteghe artigianali alla ricerca del bello, con i grandi maestri Leonardo, Michelangelo, eccetera, è diventata attrattiva, si è così ingigantita nell'Ottocento e nel Novecento fino a diventare megalopoli. E oggi poi c'è una anche scadenza dal 1 gennaio di quest'anno con le città metropolitane, tipica proprio in Italia. Ecco, la città è diventata complessa, è diventata una impresa complessa, e quindi io credo che alla stessa stregua dell'impresa produttiva si debbano inventare per la città delle school of management orientate al governo organizzativo della città, quindi una city school in grado intanto di stimolare teorie sull'organizzazione della città, teorie che allo Stato non esistono, perché si insegna a progettare, a far politiche urbane, a realizzare le città, ma non a governarle organizzativamente, e quindi poi a insegnarle a coloro che saranno destinati a gestire la città, questo per rendere la città di nuovo in potere degli individui, per ritornare ad essere un consesso civile così come fu ideata all'inizio. Ecco, ma nella realtà attuale, una realtà che è fatta di una innovazione molto veloce, della connessione di internet, della capacità di comunicazione molto più rapida che in passato, questa innovazione può facilitare questo diverso rapporto all'interno dell'impresa e all'interno della città? Ma io penso proprio di sì. Tenga presente che l'impresa che era chiusa in se stessa, l'impresa che veniva definita come castello e si è aperta, è diventata flessibile, ha subito le influenze giapponesi del toyotismo, è diventata impresa rete, si orienta oggi sul modello di impresa rete che è in costante modificazione e attualizzazione. Così la città deve diventare un oggetto di studio organizzativo perché diventi un sistema complesso ma in grado di essere gestito, ma di essere gestito attraverso teorie che preliminarmente ne studino l'andamento, ne studino l'intima connessione. Ci sia la capacità di offrire ai cittadini la possibilità di organizzarsi secondo dei parametri più moderni, più consoni appunto alle potenzialità della tecnologia, ma anche alle potenzialità e alle necessità del territorio. Anche questo, certamente, ma in primo luogo io credo che ci si debba interessare di manager addetti alla città. Noi abbiamo fatto le esperienze del city manager, che è stata un'esperienza, anche se vuole positiva, però è stata un'esperienza legata alle singole personalità dei city manager, certo, per cui la personalità eccezionale emergeva, ma non era professionale. Professor Dioguardi, ci avviamo verso la conclusione. Guardando complessivamente la realtà attuale, abbiamo cominciato col dire che è una realtà certamente complessa, una realtà in cui forse gli elementi di difficoltà sembrano prevalere su quelli di speranza, però dobbiamo comunque avere quell'ottimismo della ragione di cui spesso si parla. Ma io penso proprio di sì, e cosa vuole? Io credo che la speranza, anzi userei il termine fiducia per il futuro, deve essere la costante che non deve mai abbandonare il mestiere di vivere. dell'essere umano. Possiamo dire, parafrasando il Manzoni, che la fiducia una se la può dare, non è come il coraggio che uno non se lo può dare, come diceva Don Abbondio. Ecco, farei una piccola precisazione, anziché dire se la può dare, se la deve dare. Se la deve dare. Cioè la fiducia è un elemento fondamentale della nostra società. Per sopravvivere. Per sopravvivere, qualcosa che ecco appunto, nell'elaborazione delle idee, la fiducia è la possibilità di avere delle idee che possono aiutarci complessivamente a vivere meglio. Non c'è dubbio, e la fiducia diventa il motore esistenziale per andare avanti. Grazie, speriamo che con queste parole siamo riusciti a dare anche un po' di possibilità di avere più fiducia. Grazie a Gianfranco Ioguardi. Grazie a voi e buonasera. Grazie di essere stato qui con noi. Ricordo presidente della Fondazione Gianfranco Ioguardi, docente di organizzazione aziendale al Politecnico di Bari, cavaliere del lavoro. E io ringrazio anche in regia Carmelo Lauricella e Luca Cremonese in redazione. Vi ricordo che questo programma può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie a quanti ci hanno ascoltato e ancora buona domenica.